Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Chi ce l'ha detto Vasco prima della gara? Sì. È stato Vasco che ci ha dato lo spunto, perché sentivamo la canzone di Vasco e diceva: vedrai che media, vedrai. Allora quando ce l'ha detto anche Vasco prima della gara, ci siamo guardati e abbiamo detto: merda, dai, dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Sta cominciando a vedere il sogno che si trasforma in realtà. Vai Morbido, una carezza, un abbraccio, un bacio a tuo papà che ti ha portato su questa strada, alla tua mamma che ti segue da casa, che ti ha accoccolato e ti ha accompagnato ad essere un bravo ragazzo, sì, un campione. Morbidelli c'è, doppietta italiana davanti a Bagnai e Amir con Valentino Rossi in quarta posizione, grande gara. Ho sempre sperato di vincere, ho sempre sognato di vincere una gara in MotoGP, ma è sempre stata una cosa che comunque non mi ha mai ossessionato. Ho sempre guardato allo step successivo e lo step successivo questo weekend era la vittoria, e abbiamo cercato di lavorare al massimo per metterci a posto per la gara, abbiamo cercato di lavorare in ogni minimo dettaglio e in gara mi sentivo molto bene. Stiamo lavorando bene col team e la scelta hard era più confortevole, più facile, ma poi alla fine c'era meno potenziale, quindi abbiamo deciso di rischiare, di provare la media, ed è stata la scelta giusta perché con la temperatura più alta non si strappava, invece la mattina l'avevamo provata e si rovinava. Eccoci qui, allora 17:10 minuti, in attesa che riparta tra due minuti esatti la gara del Mugello, giro 46 su 59, Hamilton, Bottas, Ricciardo, Albon, Perez, Norris, i primi sei che si giocheranno la vittoria, anche se sarà quasi certamente un duello tra Hamilton e Bottas, Leclerc ottavo, Vettel decimo, in una domenica anonima per la Ferrari, ma che è ancora in pista ed è un pregio in una gara che ha visto ritirarsi 8 piloti su 20, due bandiere rosse, una safety car. Adesso ne parliamo con Umberto Zappelloni, però partiamo prima dalla MotoGP. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, siamo qui fino alle 19, 349 238 6666, sms, whatsapp. Voglio sapere anche cosa ne pensate dei temi calcistici. L'ultima è che potrebbe saltare l'amichevole questa sera tra Sporting Lisbona e Napoli, è a forte rischio perché tre giocatori dello Sporting Lisbona sono risultati positivi al coronavirus, si saprà qualcosa tra qualche minuto, gara che è in programma alle 19:30. Abbiamo visto anche la prima Juventus di Pirlo oggi, se volete dirmi che cosa ne pensate, 800 24 00 24. Carlo Perna, ciao. Ciao ragazzi, ciao, allora, a tutti. Ciao a te. Allora, partiamo dalla MotoGP, almeno per il, sì, pregio che ha di aver finito la gara, che insomma in questa domenica è dote rara visto quello che sta accadendo in Formula 1. È stata una grande domenica italiana, Morbidelli primo, Bagnaia secondo, per Morbidelli prima vittoria, per Bagnaia primo podio della carriera in MotoGP ovviamente, Joan Mir terzo, a poche curve dalla fine ha beffato Valentino Rossi, altrimenti avremmo fatto tripletta, no Carlo? Beh, c'è la tripletta che abbiamo fatto in Moto2, se ricordi, certo, ha fatto Marini, Bezzecchi, Bastianini, bellissima. Beh, guarda, direi, io sono felicissimo per Morbidelli, ti dico la verità, sai che poi io sono un po' pazzeriello, io avevo scommesso 300 euro che vinceva Morbidelli ieri, pensa un po'. E ne vinci quanti? Tanto. No, no, ne ho scommessi, ne ho vinti 300, purtroppo sono pochi, però intanto l'ho presi, no? Cioè, ci credevi io, ma non visto fino in fondo. Però sai, ho visto, guarda, io ti dico la verità, Morbidelli fino... Che la Yamaha non avesse avuto dei problemi, lo sappiamo, no? Di motore, di tante, era arrivato praticamente al top. Se ti ricordi, io ho rotto un motore quando era praticamente sul podio, poi la moto non sapeva di andare e Dulli era praticamente quasi arrivato. Qui in questo circuito a Misano queste Yamaha vanno molto bene, perlomeno alcune Yamaha vanno molto bene, e allora Morbido ha fatto quello che doveva fare. sono contento con lui, perché francamente è un pilota che sì, tutti dicevano che fa 30 e non fa 31, oggi ha fatto 31, ha fatto una gran gara, partire in testa, bellissima in testa. È la sua storia, bellissima, ragazzi, anche sentirlo dire la vittoria non è mai stata un'ossessione, va bene, non sarà anche stata un'ossessione, però insomma quando ci arrivi vicino. Bravo, e ci è arrivato vicino diverse volte. Guarda, a me ti dico la verità, sono molto felice anche per Bagnaia, perché è un pilota che ha vinto un mondiale di Moto2, ha fatto un'annata un po' difficile l'anno scorso col primo anno di Ducati, se vi ricordate, ma erano Ducati del 2018. Quest'anno ha una moto ufficiale, ha subito fatto vedere che era cambiata tutta la rotta, purtroppo ha avuto quell'incidente, non dimentichiamoci che qua va sulle stampelle, quindi voglio dire, non è che sia un pilota che al 100% fisicamente è a posto, però ha fatto vedere di che passa, secondo me la scelta di Ducati della prossima stagione di farlo un po' pilota di punta, secondo me non era assolutamente campata in aria, nonostante le critiche che sono state fatte da Ducati per la questione Dovizioso. E a me dispiace veramente tantissimo, te lo giuro, il podio mancato di Valentino. Ci ha provato in tutti i modi. Allora la raccontiamo perché io non ho visto la gara. È stato straordinario all'inizio, già era andato forte in tutto il weekend, insieme alle altre Yamaha. Certo. Ci ha provato in tutti i modi, è stato a lungo secondo. Morbidelli aveva qualcosa in più oggi, si è visto sin dall'inizio. Valentino è stato terzo, poi superato da Pecco Bagnaia, sembrava doversi staccare, poi si è riattaccato di ruota, si è potuto pensare potesse riattaccarlo. E poi alla fine, poche curve alla fine, ha perso il podio e ci aveva provato in tutti i modi, allungando frenate, tirando fuori tutto quello che poteva tirar fuori dalla sua moto. Sì, guarda, ha tirato fuori dal sacchetto tutto quello che aveva al di là della moto, perché faceva le curve in un certo modo per chiudere la curva che Amir era dietro. Guarda, mi dispiace enormemente perché se lo meritava. Però, ragazzi, un ragazzino di 41 anni, io dico sempre che la sua carta d'identità è taroccata. Cioè non c'ha 42 anni, c'è una scolorina, ne ha 25-30, perché fare delle gare così, anche fisicamente, era un gran caldo oggi, molto caldo. Per cui sai, devi essere molto preparato con queste moto. E aver messo dietro tanti giovani e tanti piloti ti fa capire una cosa importante. Io sai, sono un po' critico spesso, no? E lo dico. Se tu vedi Valentina arrivare terzo e quarto e giocarsi la vittoria, anche perché con Morbidelli è stato tre quarti insieme a lui, no? Di sì. Gara, vuol dire che il livello, allora già che Valentina è un fenomeno, sia ben chiaro, però sai, è un fenomeno anche a 41 anni, l'hai già compiuti, quindi sai, è un fenomeno meno qualcosa, il livello è alto, ma non è un livello da fenomeni, vi spiego cosa voglio dire, vorrei essere non interpretato male, sono fior di piloti, cioè Morbidelli, Bagnaia, Quartararo e tutta questa gente, però se un ragazzino di 41 anni mette dietro dei piloti, significa che il livello, a livello fenomeni, non c'è ancora, non c'è ancora, ci sarà, non voglio sminuire le vittorie, attenzione, non vorrei essere capito male, però il Valentino che fa queste gare, ragazzi, vuol dire che o è un fenomeno ancora lui, sì, o gli altri non hanno ancora raggiunto quella quota. C'è un contesto che lo aiuta. Questo bravissimo. È un mondiale in cui Dovizioso può arrivare settimo anonimo oggi come in tutto il weekend e trovare il primo posto in classifica, 6 punti di vantaggio su Quartararo, che ha fatto pure peggio, nel senso che si è sdraiato 2 volte, ha salutato la compagnia, intanto perdonami, è ripartita la Formula 1, terza partenza di giornata, in testa c'è Lewis Hamilton con Ricciardo che è stato più rapido di Bottas, quindi in questo momento è secondo, dunque Hamilton, Ricciardo, Bottas, poi Albon al quarto posto e via via sfilano tutti gli altri. Adesso cercheremo di raccontarvi questi ultimi 12 giri che mancano al termine del Gran Premio di Toscana, infinito millesimo primo Gran Premio della Ferrari, in qualche modo doveva essere storico questo Gran Premio e lo è anche per la lunghezza di questa gara. Carlo, ti chiedo un minuto di pazienza perché poi parliamo di Dovizioso, del Mondiale e anche di Valentino Rossi, perché ci sono 7 piloti racchiusi in 19 punti e la verità è che senza Marquez è diventato un casino totale interpretare questa stagione. Io dico sempre che quando non c'è il gatto i topi ballano, capito? Nel senso che poi ci sono le trappole per i topi, sono tanti i topi che ballano, però le trappole del formaggio ci sono, sai quante cadute hanno fatto, hai visto? Un campionato che oggi non puoi scommettere che possa vincere, onestamente è come tirare fuori un numero dalla tombola e metterlo sulla casella, è difficilissimo, ora credimi. Allora, un minuto di traffico, riparto da te e raccontiamo anche gli ultimi 12 giri del Mugello. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati. Intanto Bottas ha rimesso le cose a posto alle spalle di Lewis Hamilton, che è leader a 10 giri dalla fine del Mugello. Bottas a 1 secondo e 3, poi Ricciardo, Albon, Perez e Norris. Sono partite malissimo le Ferrari, erano 8° e 10°, Leclerc 8° e 10°, Vettel sono in questo momento 10° Leclerc e 11° Sebastian Vettel, dietro di loro soltanto Russell, poi il nulla perché gli altri 8 si sono ritirati. Stiamo parlando con Carlo Pernat della MotoGP. 800 24 00 24, leggo la classifica mondiale dopo le prime 7 prove: Dovizioso 76 punti, Quartararo 70, Miller 64, Mir 60, Valentino Rossi e Vignales 58, Morbidelli 57. Fa 7 piloti in 19 punti. E secondo me aveva ragione Carlo ieri, Valentino Rossi, quando diceva: cerchiamo di fare bene perché qui bisogna fare punti per il mondiale. Cioè, sì, lui sì, ci, sì, pensa, ci pensa, sì. E fa bene, è un'occasione storica per raggiungere quella quell'araba fenice del decimo titolo, ci sta. Poi Valentino si sta allenando tantissimo, lo vedi che è preparato, ha voglia. È peccato per oggi perché, ripeto, il podio se lo sarebbe meritato, ma invece devo un po' sottolineare la brutta prestazione di Dovizioso. Non lo sto capendo, perché poi in fondo le Ducati non vanno male, Bagnaia era sul podio, Miller era lì. E quindi cosa gli succede? Ma sai, secondo me quella diatriba tra virgolette fatta tra lui e la Ducati ha pesato. Io credo che psicologicamente lui si sia un po' scaricato. Mm. E sai, quando un pilota va sempre motivato, quando si scarica perde sempre il 10%. Quindi un primo, secondo posto mondiale non è una motivazione sufficiente. Guarda, secondo me se le trova lì, ma non lo vedo. Cioè, non puoi fare questo tipo di gare, onestamente, quando gli altri tuoi compagni vanno più forti. C'è qualcosa che non funziona, lo vedi che anche nelle prove è sempre abbastanza polemico, non è mai non va, scrolla la testa. Non l'ho mai visto un Dovizioso così, onestamente. Gli ultimi 3 campionati era il primo degli umani, come lo chiamo io, non era il secondo, era il primo degli umani. Mi sembra un Dovizioso in tono minore. Quando arrivi a questi punti, se non hai motivazione, credimi, non, è più la gara che la classifica. Deve trovare qualcosa per ritornare Dovizioso di prima. Così secondo me il mondiale è difficile che se lo possa giocare. Poi chiaro, i punti in questo momento sono a suo favore, ma è roba passata, la roba futura è molto diversa. In questo momento vedo più Valentino che ha voglia. Di Valentino poi devo dire anche perché cosa. Si torna a Misano fra una settimana, se i rapporti di forza sono questi, fra una settimana possiamo leggere una classifica diversa. Sì, magari sai, qui si prova 3 giorni, ora infatti io sono qui sopra, tutti i meccanici stanno preparando le moto perché si prova 3 giorni per il prossimo Gran Premio. Settimana di lavoro. Esatto, quindi tutti quelli che non hanno la moto apposta avranno tempo di metterla a posto, evidente, quindi sarà un Gran Premio secondo me anche diverso, perché dopo questo Gran Premio hai 3 giorni da mettere la moto a posto, magari chi è indietro può anche mettere a posto il gap. Sai, hanno deluso un po' le KTM oggi, ragazzi, perché ci avevano abituati forse anche bene, ma secondo me c'è un motivo, perché la KTM ha sempre potuto provare negli altri circuiti con Pedrosa, 2 volte in Austria, 1 volta a Brno, e sai, quando provi 2 o 3 volte prima che te lo permette il regolamento, sai, sono sempre la bellezza di 24 ore sul circuito a mettere a posto la moto con le gomme. E quando qua ha provato 1 sola volta a giugno, e qui si è visto che, sai, le prove mancano, onestamente, sì. Devo dirle. Messe insieme a tutti gli altri, poi la KTM ha fatto fatica. Grazie Carlo. Grazie a voi, buon Formula 1. Grazie a Carlo Perda, sì, buona Formula 1, e allora andiamo al Mugello, dai. Andiamo al Mugello per raccontare una gara che è arrivata al giro numero 52 su 59. In testa c'è Lewis Hamilton, che ha appena fatto il giro più veloce, sta andando come un treno, 2 secondi e 8 di vantaggio, 1:19.647, giro che ha appena concluso, 2 secondi e 8 di vantaggio su Bottas. Poi Albon a 4 secondi, Albon che ha saltato Ricciardo, che era stato molto rapido alla terza ripartenza. Poi Perez, Norris, Kvyat ha preso un paio di posizioni, una posizione Leclerc, che è nono in questo momento alle spalle di Raikkonen, che però sarà penalizzato di 5 secondi, quindi virtualmente in questo momento Leclerc è 8°, 10° Vettel. Umberto Zappelloni, ciao. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, da dove partiamo per raccontare questo pomeriggio infinito del Mugello? Partiamo dalla questione sicurezza? Dalla questione sicurezza, va rivisto qualcosa sicuramente nella ripartenza dietro safety car su circuiti come quello del Mugello, dove la linea di ripartenza è molto in là nel rettilineo, perché la linea di ripartenza è stata appaiata a quella che è la linea del traguardo, che al Mugello è molto in fondo, e quindi abbiamo visto insomma una ripartenza a cui i piloti non erano abituati, con un bel pasticcio, un bel rischio, con Giovinazzi che si è trovato praticamente davanti il muro di Magnussen, e un incidentone di quelli che qualche anno fa avrebbero portato dei danni notevoli. Oggi per fortuna non hanno causato nessun danno a nessuno dei piloti coinvolti. Sì, per chi ha qualche anno in più, insomma, c'è qualche ricordo evocato dalle immagini viste oggi, drammatico, anche per l'esito di quegli incidenti. È andata benissimo, è andata bene a Stroll, giro numero 46, quando ha perso la macchina, credo anche non per colpa sua, forse per un cedimento, è andato a sbattere forte, un po' come settimana scorsa era andato a sbattere Leclerc. Io non so per quale ragione noi stiamo vedendo in queste settimane, se sia solo una coincidenza, una Formula 1 con tanti incidenti importanti. Tanti incidenti, quello di Stroll è uscito, calcolavano a 280 all'ora l'arrabbiata 2, probabilmente per una foratura sembra, però anche fortunatamente anche lui non si è fatto nulla. Una Formula 1 con tanti incidenti, oggi sono rimaste in 12 macchine, 8 macchine eliminate, hanno anni che non si vedevano in Formula 1. Non ci sono più magari tanti problemi meccanici, a parte forse quello di Verstappen all'inizio, ma ci sono stati tanti tanti incidenti, ma credo che non ci sia un motivo assoluto, anche se qualcuno potrebbe suggerire che fare 3 Gran Premi di fila, poi al terzo Gran Premio magari trovi dei piloti un po' più stanchi, ma non credo che sia dovuto a un problema di preparazione dei piloti, credo che sia piuttosto una casualità. È il fatto che si corra su una pista nuova praticamente per tutti può sicuramente avere influito, soprattutto per quanto riguarda l'incidente che ha causato poi la prima bandiera rossa. Sì, pista molto impegnativa, molto bella, spettacolare, ma molto impegnativa. Molto impegnativa, perché lo abbiamo visto anche nelle prove dei giorni scorsi, che basta sbagliare un poco e la macchina poi non la riprende. Poi tra l'altro qui, essendoci la ghiaia subito all'esterno, se vai con una ruota sulla ghiaia, poi veramente la macchina non la riprende più. Però abbiamo visto anche delle vie di fuga infinite e straordinariamente sicure, perché insomma Verstappen l'altro giorno, oggi Stroll quando è uscito, insomma, poi prima di arrivare all'impatto la sua velocità è molto molto calata, insomma. Quindi la pista è sicuramente sicura anche per la Formula 1 e non solo per le moto. La pista è promossa, anche se la facilità di oggi è che c'è poco pubblico, perché sappiamo che il vero problema del Mugello è poi l'affluenza e la defluenza poi del pubblico quando ci sono dei grandi appuntamenti motoristici. Guarda, scrive un amico, la domanda è se il Mugello oggi ci abbia guadagnato per essere magari presente negli anni futuri, oppure sarà semplicemente vissuto per un anno e poi basta. Oggi come oggi sembra che sarà vissuto soltanto per un anno, così come capiterà a Imola tra qualche settimana. Però il Mugello è una pista che è piaciuta a tutti, non c'è un pilota che si sia lamentato del Mugello, l'hanno trovato molto demandante, molto dal punto di vista anche fisico del pilotaggio, è piaciuto e quello che abbiamo visto oggi in gara poteva capitare anche in sì, altre ovunque. Piste, insomma, ovunque. Certamente. Allora, facciamo il punto sulla Ferrari. Ieri sera c'è stata la grande festa, so che in questi giorni tu hai avuto un confronto con il presidente azionista John Elkann, che è poco soddisfatto di quello che scrivi. Tu giustamente gli hai detto deluso, che tutti noi, tutti noi siamo molto poco soddisfatti dal resto. Sì, diciamo che poi lui nel discorso di ieri sera e anche quello che ha detto oggi prima della partenza ha ammesso che questa Ferrari è una Ferrari che non può puntare alla vittoria quest'anno, che non potrà puntare alla vittoria l'anno prossimo. Ha dato appuntamento ai tifosi al 2022, quando lui è convinto la Ferrari tornerà a vincere per i suoi tifosi e per l'Italia intera. Non so su cosa si basi la sua convinzione, perché quello che fa rabbia, dopo l'orgoglio di ieri sera, il grande orgoglio della festa Ferrari per i 1000 Gran Premi con il Palazzo Vecchio di Firenze, che ha fatto da schermo alle grandi stagioni e alle grandi vittorie Ferrari, perché quest'anno la Ferrari è l'unica a non aver portato in pista delle novità di rilievo, insomma è partita come terza, quarta forza di questo mondiale, adesso rischia di non entrare nelle prime 10 in qualifica. C'è dietro una strategia, sarebbe servito qualcosa, portare, spendere soldi per una stagione che si è capito dall'inizio che era nata morta. Sai, visto che l'anno prossimo le regole non cambieranno più di tanto, cercare di fare delle evoluzioni su quello che poi potrebbe venire utile l'anno prossimo, a motore a parte dove non potevi intervenire, forse aveva un senso, anche perché finire il mondiale al terzo posto del mondiale costruttore, quello che è stato l'obiettivo dichiarato, è una cosa, finire al quinto, sesto, se non peggio, è sicuramente un'altra cosa. Oggi abbiamo visto un Leclerc che è partito benissimo, era terzo. È deprimente. Dopo i primi giri, la gara di Leclerc è deprimente. Ha resistito 6-7 giri, e poi non poteva fare niente, aveva 25-28 km orari in meno di tutti gli altri, gli arrivavano dietro, mettevano la freccia e sorpassavano senza neanche dover forzare, tanto erano più veloci di lui. Adesso stai vedendo Leclerc e Vettel che tentano a tenere il ritmo dell'Alfa Romeo, che pure ha lo stesso motore, con Kimi Raikkonen che è davanti a loro, cioè qualcosa di veramente deprimente. Ha cambiato soltanto il colore, la Ferrari è obiettivamente molto bello, però si sperava in un millesimo Gran Premio decisamente differente, dopo che ieri Leclerc ci aveva fatto vedere una magia in qualifica, anche aiutato da quelle bandiere gialle che gli hanno permesso di tenere la quinta posizione sullo schieramento. Oggi non c'è stato nulla che lo ha aiutato, ed è deprimente vedere come non possa assolutamente cercare di controbattere a chiunque gli arrivi dietro con qualsiasi macchina, insomma, solo sì, la Williams adesso sta dietro, tranne la Ferrari di Vettel che ce l'ha dietro e non riesce e non riesce a superarlo, ma è la Ferrari di Vettel, tutti gli altri, insomma, a parte la Williams, oggi veramente è stato l'ennesimo calvario. Siamo nel terz'ultimo giro, Hamilton a un secondo e mezzo su Bottas e sembra tutto deciso, poi Albon, Ricciardo che è staccato di un paio di secondi da Albon, quindi Perez, Norris, Kvyat. E pensate che Raikkonen probabilmente anche con i 5 secondi di penalità per essere entrato nella pit lane durante safety car, insomma cosa che abbiamo già visto con Lewis Hamilton, rischia di riuscire comunque a finire davanti a Leclerc che ha 3 secondi di margine e sta progressivamente scivolando verso il meno 5 secondi, che significa perdere un'altra posizione, ammesso che abbia un senso ragionare sull'ottava, la nona, la decima posizione. Grazie direttore. Grazie a voi. Ricordiamo che per Hamilton sarebbe comunque la 90esima vittoria, insomma, cifra tonda nel giorno del millesimo Gran Premio della Ferrari, ma Hamilton è riuscito a scherzare con Bottas anche oggi, insomma. Sì, diciamo, è stato fortunato perché alla prima partenza in realtà Bottas l'aveva saltato, la prima bandiera rossa in qualche modo lo ha aiutato, probabilmente l'avrebbe fatto comunque in pista o in box, però insomma l'ha aiutato a poter ripartire davanti, ma questo è il destino di Bottas. Buon pomeriggio a tutti. Ciao direttore, grazie. Ciao. Umberto Zappelloni, 800 24 00 24. Noi ci fermiamo un minuto, quando torniamo abbiamo il finale del Mugello e poi cominciamo a parlare di calcio. Arriva per Luigi Pardo, c'è la prima Juventus di Andrea Pirlo che abbiamo visto questa mattina, orario insolito, in amichevole contro il Novara, amichevole che non conta nulla ma che ha dato qualche prima indicazione di quelle che saranno le scelte di Pirlo. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua! Tutti convocati. Tutti convocati. Stiamo provando diverse soluzioni. Oggi nel primo tempo abbiamo provato con una difesa 4 che poi in fase di impostazione diventava 3, mentre nel secondo tempo siamo rimasti con una difesa bloccata con i 3 fissi e con i 3 davanti. Quindi stiamo provando più soluzioni anche per vedere i giocatori che abbiamo a disposizione. Abbiamo ancora una settimana per poter preparare quella partita di domenica. La squadra che deve avere entusiasmo, i ragazzi si stanno abituando al nuovo tipo di lavoro, si divertono e quindi questa è la cosa più importante per poter ripartire. Abbiamo davanti una lunga stagione, quindi avremo modo adesso e tempo per poter lavorare tutti insieme. Stiamo sta bene, ha dimostrato già in nazionale, l'abbiamo visto anche oggi, si muove con disinvoltura e è pronto per poter fare una grande stagione. soddisfatto perché era la prima partita, ci siamo ritrovati con tutti i giocatori a disposizione solo giovedì e quindi abbiamo avuto solo due giorni per poter preparare la partita ma anche per provare le nostre cose, quindi sono soddisfatto, i ragazzi si sono impegnati, hanno fatto un bel allenamento, quindi questa era la cosa più importante. Eccoci, allora, riassunto di Andrea Pirlo dopo la partita amichevole, allenamento, l'ha definita Andrea Pirlo, oggi della Juventus contro il Novara, giocato addirittura alla Continassa, quindi diciamo proprio sul campo di allenamento della Juventus. Guido Vaciago, inviato Tutto Sport, ciao Guido. Buongiorno a tutti. Abbiamo anche il nostro Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ciao, ciao, ciao. Eccoti. Ciao Pier. Allora, ciao. Guido, ci racconti un po' che Juventus abbiamo visto, per chi questa mattina alle 10.30 era impegnato in altro? Una Juventus interessante dal punto di vista tattico, perché come ha detto bene Pirlo, vederla impostare a tre in questo sistema di gioco cangiante, rotante, che si è vista nel primo tempo, è stato interessante perché applicato bene. E mi sembra che offra poi trovarsi con un gran numero di giocatori nella metà campo avversaria ben coordinati, offra parecchie soluzioni alla manovra offensiva. Abbiamo visto un buon McKennie, sicuramente potrebbe essere una delle sorprese positive. Kulusevski fuori ruolo, cioè faceva il centravanti boa, mi è sembrato comunque positivo, mi è sembrato interessante l'intesa che aveva con Ronaldo e come Ronaldo lo guardava con gli occhi a cuoricino, perché sì, si vede che vede un possibile compagno di scambi corti, di scambi di velocità. Che può anche essere un problema in assoluto, visto che deve arrivare un altro numero 9 e a un certo punto dovrà rientrare Dybala. Guai se fai gli occhi dolci a quell'altro che deve giocare in un'altra posizione. A me spiace perché poi mi attiro, non hai idea di quanto odio da parte dei Dybalers, Dybalers, che sono tanti e se giustamente sono tanti perché stiamo parlando comunque di un fuoriclasse. Però per me Dybala quest'anno parte indietro perché non è titolare di Dybala, che non è poi il massimo per andare a trattare il rinnovo a rialzo. Lo so, però per me in questo momento se arriva Suarez o se arriva un altro numero 9 non fanno il tridentone, perché non può reggere dal punto di vista difensivo. Quindi c'è Ronaldo, che tanto ne gioca quasi tutte, c'è il numero 9, fai conto Suarez, bene, facciamo Suarez, tu non puoi giocare con Dybala ancora, perché sennò poi equilibri tutto. Ci ha provato Allegri, ci ha provato Sarri, nessuno ci è riuscito. Quindi tu il terzo è Cuadrado, che poi torna a fare il 4-4-2, è Kulusevski, che poi torna e si allinea alla linea dei centrocampisti, è Bernardeschi, ma non può essere Dybala. Dybala è l'alternativa o a Suarez o a Ronaldo, e quindi la solita è un'alternativa di lusso, sono due ultra 35 anni, quindi Suarez ne ha 33, ma comunque Ronaldo va per i 36 e Suarez per i 34, quindi non è detto che Dybala ne giochi poche, questo non lo voglio dire, ma per me è l'alternativa loro due. Pier, io non so come la pensi tu, ma io in tutta questa descrizione più che un'opportunità vedo un problema in assoluto. Diciamo i problemi sono altri nella vita, però sicuramente quello che dice Guido anche per me corrisponde al vero. Io non so se sia in assoluto una riserva, perché è un giocatore di grandissimo talento, però è chiaro che la Juve deve trovare equilibrio, se vuoi giocare col tridente. Io penso che l'idea di Pirlo sia comunque quella di giocare col tridente, perché insomma la Juve ha l'ambizione e il DNA di una grande squadra, di una squadra che vuole imporre il proprio gioco, e secondo me i tre attaccanti sono una sorta di must, insomma. Ma per tre attaccanti quindi intendi Dybala, il numero 9, quello che sarà, e Ronaldo? Cioè tre attaccanti con appiccicata l'etichetta di attaccante? No, sono d'accordo con Guido, cioè sono Dybala, Suarez o Dzeko, chi volete voi, decidete voi, Dybala una prima punta e Ronaldo è troppo per come idea di partenza. Poi può essere utilizzata in determinati momenti di gara, può essere utile in certe situazioni contro certi avversari, puoi anche partire così, però è un tipo di... È chiaro che se tu giochi con una prima punta e con Ronaldo hai bisogno di un terzo attaccante del tridente che ti dia una mano in fase di non possesso, quindi che abbia caratteristiche diverse, caratteristiche alla tua scorta, tanto per capirci. Sì, che corra per gli altri due. Che potrebbe avere anche Kulusevski, però insomma il dolce problema della Juve si chiama Cristiano Ronaldo, è un problema meraviglioso, sia chiaro, il problema è detto fra mille virgolette, perché è ancora un giocatore che se vuole vince le partite quasi da solo, ed è una bella situazione da cui partire, la prima punta centrale è imprescindibile, ed è chiaro che per un giocatore talentuoso come Dybala, talentuoso un po' meno di Ronaldo, ma comunque talentuoso, questa non è la situazione ideale. Detto questo, credo che proprio come è successo lo scorso anno, quando partiva comunque dalle retrovie, anche quest'anno si saprà ritagliare tante situazioni, farà gol, perché poi il talento è indiscutibile. Però è esattamente come dice Guido, cioè non è la situazione più classica, più comoda, più semplice di partenza per lui. Sì, Pirlo sarà anche un debuttante, anzi è certamente un debuttante, io devo dire sono molto critico sulle etichette maestro, Pirlolandia e altre cose insomma che abbiamo letto e sentito, presenti esclusi ovviamente, però sarà anche un debuttante, ma le idee chiare le ha anche a livello comunicativo. Leggo, due punti, aperte virgolette, l'attaccante mi serve il prima possibile, chiuse virgolette. No, così per capire che tanto morbido non è. Beh, insomma, adesso voglio dire, ci sono due aspetti della vicenda. Da una parte dobbiamo tener conto che viviamo un momento del calcio molto particolare, è da tre mesi che ce lo ripetiamo, abbiamo assistito a un finale di campionato con gli stadi vuoti, giocando in tre giorni, abbiamo assistito alla Final Eight di Champions. Nessuna delle nostre abitudini, sia dal punto di vista del calendario che dal punto di vista del format, è rimasta uguale a prima. Anche il mercato è cambiato e stravolge le abitudini. Quindi tutto questo va in qualche modo a giustificare il ritardo dei dirigenti della Juventus sull'acquisto del centravanti. Dall'altra parte però sappiamo che la Juventus inizia il campionato fra sette giorni, scusate, domenica alle 20:45 contro la Sampdoria, senza un centravanti di ruolo, perché giocherà, secondo me, in questa settimana è molto difficile che chiudano in tempo per schierarlo contro la Sampdoria, e quindi giocherà con Kulusevski e Ronaldo di punta. Vediamo come si arrangeranno. Nella ripresa ha fatto gol anche Piazza, che è un giocatore che ha un debito un credito molto con alto con il destino, certo. E quindi potrebbe anche chissà riscuotere improvvisamente qualcosa, ma diciamo che in questo momento la Juve non ha il centravanti, quindi vediamo. È vero, Pirlo è Pirlo, non ha bisogno di fare il diplomatico. Il vantaggio che lui ha da debuttante rispetto ad altri allenatori magari anche più navigati di lui è il fatto di essere stato un giocatore estremamente carismatico, e il fatto che lui ha una storia che gli permette di dire la frase che ha detto senza temere di aver fatto polemiche. E Pirlo giustamente ha detto come stanno le cose. Lui il centravanti ne ha bisogno, perché poi insomma dovrà provare un minimo. È vero che l'attaccante, la punta centrale la inserisci con più facilità di un centrocampista di costruzione o di un centrale difensivo, però insomma è anche vero che dovesse arrivargli dopo due o tre partite di campionato è un po' una situazione un po' scomoda per l'allenatore, che oltretutto poi ha stretto giro di posta poi il 12 di ottobre, o non mi ricordo, il 12 o 13 di ottobre inizierà la Champions League. Sì, che noi continuiamo a dire resta l'obiettivo della Juventus. Io adesso saluto Guido Vacciago e lo ringrazio. In realtà ieri a sentire Elkan non è più l'obiettivo prioritario della Juventus, almeno non per questa stagione. Questo è il grande tema da cui ripartiremo dopo il traffico, perché Elkan ha dato come obiettivo in missione il decimo scudetto consecutivo, ed è curiosamente sparita almeno ieri dalla comunicazione della proprietà la parola Champions League, e cercheremo di capire se c'è dietro veramente una valutazione diversa rispetto alle ultime due stagioni, quelle diciamo dell'era Ronaldo, o se si è trattato semplicemente di una sintesi che ha dimenticato un pezzettino. Ma da qui ripartiamo, grazie Guido. Grazie a voi. Ciao, grazie a Guido Vacciago. 800 24 00 24, mentre si completa il podio del Mugello, Hamilton, Bottas e Albon, così hanno chiuso il traffico, e torniamo subito. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. Quando si è vinto 9 scudetti di fila, arrivare al decimo è quello su cui tutti noi juventini puntiamo. E sicuramente quello è un obiettivo importante, difficile, e abbiamo un nuovo allenatore che sa cosa vuol dire vincere. Allora, queste le parole di Elkan ieri, Pier, a me hanno fatto un po' impressione, impressione insomma, relativamente, ho notato un cambio di comunicazione. No, se vuoi ti do tre motivi per cui è giusto dire che l'obiettivo della Juve è lo scudetto. Il primo è che la Champions, lo sappiamo, non è un obiettivo, nel senso che la Champions è una cosa talmente liquida, e non uso un aggettivo a caso, nel senso che è una cosa che dipende, che può dipendere da una partita. È addirittura gassosa in questo momento. Sì, capisci, cioè, stiamo parlando di una cosa dove sbagli una partita, come può succedere in finale o anche in una semifinale, e vanifichi l'intera stagione. Quindi legare la stagione alla Champions, ma non vale solo per la Juve, vale per qualsiasi squadra, è abbastanza riserva, un rischio. Mentre il campionato è un discorso di programmazione che dura mesi, 9 mesi, che dura 38 partite, dove ci sono dei flussi di condizione fisica, di condizione psicologica, quindi è nettamente più logico, secondo me, in generale, in assoluto, per qualsiasi squadra concentrarsi su un obiettivo di quantità come il campionato. Il secondo motivo è che c'è un allenatore nuovo, e c'è una rivale in questo momento che sembra molto vicina, l'Inter, senza sottovalutare la Lazio, che lo sai, secondo me senza il lockdown poteva tranquillamente vincerlo, senza sottovalutare le altre che stanno crescendo. Quindi sembra una stagione così, sembra, una stagione con delle distanze molto più ravvicinate. E quindi torna all'attualità a vincere lo scudetto. La terza cosa è il numero tondo, perché comunque, cioè, certo, questo non c'è dubbio, 10 è 10. Insomma, la mente umana è sensibile ai numeri, è sensibile ai record e alle imprese, e 10 è un numero incredibile, che fa più notizia di 8 o di 9. Certo. Sandro Sabatini, ciao Sandro. Ciao, buona domenica. Allora, è bello il ragionamento di Pierre, in parte condivisibile, però era molto così anche un anno fa, 2 anni fa, quando invece da Andrea Agnelli avevamo sentito parole molto diverse a proposito delle priorità che venivano affidate all'allenatore della Juventus. Non lo so, io ho trovato una differenza. Sì, però sai, non, evidentemente si era reso conto di essere stato troppo, come dire, spregiudicato nelle parole pronunciate nell'estate di 2 anni fa. Io credo che sia questa consapevolezza. Cioè, l'estate del 2018, in occasione del discorso pre-stagionale, aveva detto puntiamo alla Champions League, stavolta invece ha detto puntiamo al decimo scudetto. Ma perché? Perché quello che ha appena detto Pierluigi Pardo, cioè la Champions League, sai, innanzitutto sei ad agosto, no, siamo a settembre, scusate, ho fatto confusione col calendario, con le amichevoli, è come fosse agosto, capita, però, sì. Certo. Anche perché fa caldo, almeno a Milano faceva il caldo di luglio, oggi. Fa caldo, sì, no, siamo a settembre, e di fatto di Champions League parlerai, poi ci sarà da parlare, da fare previsioni, da fare pronostici, auspici, eccetera, eccetera, a caso mai da marzo. Perché è talmente tanto diverso poi il cammino alla Champions League e tutto quello che succede da primavera in poi, che effettivamente, guarda, secondo me ha fatto bene quest'anno Agnelli, aveva fatto male 2 anni fa a parlare di Champions League. Detto questo, io sono sicuro che 2 cose. Primo, che non sarà facile per la Juve vincere questo decimo scudetto, ma per un motivo molto semplice, perché Inter e Lazio si sono avvicinate. E ti arrivo a dire anche il Milan, anche se è ancora troppo distante. E secondo, per i tifosi sarà inevitabile, sarà micidiale poi il richiamo alla Champions League, che arriverà quando dovrà arrivare, ecco, al di là delle buone intenzioni delle società, allenatori, giocatori. Sì, io mi chiedo, visto che noi abbiamo passato gli ultimi 2 anni, no, a chiederci quale fosse la motivazione dei giocatori, molti nella Juventus hanno vinto 4, 5, 6, 7, 8 scudetti, quale potesse essere la motivazione dentro il campionato. Abbiamo sempre detto, vedrete che si accenderanno nelle notti di Champions e in poche grandi partite di campionato, cosa che poi più o meno puntualmente è avvenuta tranne la parte della Champions. E mi chiedo cosa cambi quest'anno, al di là del fatto che c'è un allenatore debuttante, e sicuramente questo è uno shock che da un certo punto di vista può provare a rialzare l'attenzione anche in campionato, al di là del numero 10 e di tutto il resto. è una curiosità che mi porto dietro e che vedremo di soddisfare. Secondo te quale sarà, Sandro, il numero 9 che chiede con urgenza a Pirlo? Ma con urgenza lo chiede, però non con urgenza, mi sembra che non glielo danno. Sono molto diversi i numeri 9 che sta valutando la Juventus, perché uno è Suarez che gioca sul dischetto del rigore, un altro è Dzeko che invece fa il regista offensivo, un altro ancora è Morata che all'occorrenza può giocare anche a destra o a sinistra. E probabilmente l'affare dal punto di vista economico e tecnico più a lunga prospettiva sarebbe difficile. Quindi con urgenza, ma io non so se anche con nitidezza di obiettivo, ecco, perché non sono riuscito a capire qual è l'obiettivo numero 9 della Juventus e di Pirlo. E credo che poi sia l'urgenza sia giusta sottolinearla, ma comunque ti presenti all'inizio il campionato con Ronaldo, Dybala e Kulusevski, quindi sì, insomma, ti puoi accontentare sono tecnicamente bei problemi. È chiaro che lo spettro di alternative è straniante, no? Perché poi già noi conosciamo poco, forse nemmeno Pirlo conosce se stesso, quindi abbiamo una difficoltà oggettiva nell'immaginare come giocherà Pirlo. Lo conoscevamo da giocatore e quindi è abbastanza umano proiettare sul Pirlo allenatore le caratteristiche estetiche e tecniche e tattiche del Pirlo giocatore. Ma magari è sbagliato, perché ci sono stati allenatori che sono stati completamente diversi rispetto allo stile o al ruolo che svolgevano i giocatori, quindi magari questo ragionamento è sbagliato. Guarda, ti faccio un nome, Gattuso, che è una cosa che rivendica sempre. Io ero Ringhio in campo, sono tutt'altro in panchina, ma voi continuate a chiamarmi Ringhio. Ma anche Emiliano Mondoni, al quale mandiamo un bacio lassù, che insomma chi l'ha conosciuto sa benissimo che era un attaccante, era un fantasioso, un creativo, lo è stato sempre nella vita, con le parole, col linguaggio e col rapporto umano, ma poi in campo invece era molto pragmatico, in certi momenti era anche un allenatore di difesa e ripartenza. Quindi voglio dire, ci sono mille esempi nella storia del calcio che vanno in questa direzione qui. Io penso che in generale decidano anche le circostanze, nel senso che la Juve ha una situazione che è una situazione ottima, perché insomma se guardi la rosa, appunto, Cristiano Ronaldo, Dybala, sì, c'è chi sta peggio, Kulusevski, esatto. Però comunque non è un mercato semplicissimo, cioè non è una squadra fatta, perfetta e finita, è una squadra che deve fare dei cambi e che soprattutto in un mercato complicato per tutti come quello di quest'anno potrebbe trovare qualche difficoltà, cioè non c'è la soluzione ideale, non è tutto smooth, non è tutto morbido e semplice. È un po', Pier, la fotocopia di quello che è successo l'estate scorsa al mercato, esatto, di Sarri. Abbiamo un minuto, Pier, esatto. Fammi chiudere con Sandro Sabatini, poi abbiamo il GR. Voglio chiedergli se crede a quello che ha letto oggi in prima pagina sulla Gazzetta, quindi la Fiorentina che offre Chiesa al Milan, fondamentalmente all'interno della richiesta ci mandate Milenkovic. Milenkovic no, ma magari parliamo di Chiesa. Credo che ci sia qualcosa, anche perché c'è il trade union di Pioli, sia con i giocatori sia tra le società. Credo che i conti però non tornino, perché la valutazione di Chiesa non può vederla dimezzata da un'estate all'altra. Non può scendere così. Sarebbe un mercato clamoroso, quello del Milan, arrivasse anche Chiesa. Bellissimo. Clamoroso anche in prospettiva, clamoroso anche in prospettiva, considerato da dove partiamo. Veramente bellissimo, sarebbe un mercato bellissimo, perché il mercato di prospettiva, mercato giovane, mercato di giocatori forti, sarebbe una cosa da entusiasmo puro per i tifosi, davvero. Sì, sarebbe un mercato da Champions, posto che poi in Champions vanno solo in quattro. Ho capito che la vostra griglia è Juventus-Inter-Lazio e non dobbiamo dimenticarci l'Atalanta, che parte tra l'altro con sulle spalle l'esperienza di queste ultime due stagioni. Ma magari lo chiedo anche a casa, se a una settimana all'inizio del campionato avete una vostra griglia, 800-24-00-24. Io saluto Sandro Sabatini, ciao Sandro. Ciao, grazie a voi. Ciao, grazie. Mi tengo invece per Luigi Pardo, dopo il GR andremo avanti a fare chiacchiere sul calcio, parleremo anche di Premier League, 28esimo minuto, Tottenham 0, Everton 0, questa è la sfida tra Mourinho e Ancelotti. Ieri abbiamo visto quella bellissima tra Klopp e Bielsa che ha vinto il Liverpool. Due chiacchiere le faremo anche sul calcio inglese, arriviamo subito. Mancherebbero due minuti, però mi hanno dato tre minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20, manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da GS Risarcimento Danni.it, la forza di cui hai bisogno. Minuto numero 38, Tottenham-Everton 0-0. Tra qualche istante parliamo della Premier League, che è iniziata col botto ieri in attesa dei due Manchester che, esattamente come capiterà domani, domenica prossima, a chi è andato lungo, quindi Inter e Atalanta nelle coppe europee, i due Manchester non giocano in questo fine settimana nella giornata di debutto della nuova stagione della Premier League, ma lo spettacolo non è mancato. Ieri abbiamo visto il Liverpool, abbiamo visto l'Arsenal, carissimo Pierluigi Pardo, che ha vinto 3-0 in trasferta contro il Fulham. Stiamo vedendo questo 0-0 tra Mourinho e Ancelotti, allenatori che sono nel cuore del calcio italiano, quando siamo arrivati al 40° minuto. A proposito di emozioni del cuore, io non so se hai visto, ho già avuto un tuffo quando Paolo Maldini ha pubblicato su Instagram quella foto per pubblicizzare la seconda maglia del Milan, ma rivedere quella maglia lì sulle sue spalle con dietro scritto Maldini numero 3 mi ha riportato indietro come nella macchina del tempo. Beh sì, le maglie fanno parte nonostante tutta. Andate a cercarla, quell'immagine, a parte che lui si tiene come se potrebbe scendere in campo domani mattina, a vederlo. Però esatto. No, a parte tutto il cinismo del marketing, insomma, il realismo del marketing che sicuramente cambia le maglie ogni anno, però poi la maglia sappiamo che è un elemento sacro, quindi poi quella maglia lì sappiamo che insomma è parte di una dinastia, quel cognome su quella schiena, su quella maglia, quindi insomma c'è da questo punto di vista una continuità. Guarda, la cosa di Maldini, io sono contento che stia facendo questo grande mercato perché c'è una saldatura fra l'aspetto sentimentale, simbolico di questa famiglia così importante nella storia rossonera e l'aspetto pratico, cioè sta dimostrando anche da dirigente di essere un valore aggiunto come lo è stato da calciatore. Non mi sorprende, credo che come tutte le cose della vita, come diciamo noi a Roma, nessuno nasce imparato, cioè anche lui stia utilizzando questi mesi e questo tempo per guadagnare esperienza, per guadagnare mestiere. Il talento, l'intelligenza, la capacità di scegliere i giocatori sicuramente non gli manca, e mi sembra che i risultati stiano cominciando a venire fuori. Poi se abbiamo chiuso l'ora precedente parlando di questa suggestione, esatto, Oggi messa in prima pagina dalla Gazzetta dello Sport, è già un mercato da sogno, già così è un mercato da sogno, ed è un mercato per certi versi sorprendente alla luce anche proprio della dimensione economica degli investimenti del Milan nel periodo recente. Cioè, io ho la sensazione che qualcosa sia cambiato in termini di strategia, in termini proprio di budget a disposizione. Forse anche la crisi è diventata un'opportunità in questo caso, è stata valutata così. Esatto. L'idea di poter accorciare le distanze un po' più in fretta. Teoricamente vale per tutti, no? A parole è facilissimo dire, trasformiamo la sfiga o la crisi in un'occasione per riguadagnare punti, e poi bisogna farlo, e per farlo bisogna mettere in campo delle risorse, e mi sembra che da questo punto di vista la strategia sia stata molto precisa. Il resto sta facendo una certa lucidità che però alla fine è una cosa un po' meno sorprendente, nel senso che poi Di Maldini mi tiravo prima. È sempre stato molto attento, bravo, lucido. Intelligente. Adesso porta anche gli strumenti, e poi credo che un paio di cose gli stiano venute proprio bene, al netto di quanti giorni mancano. 142 oggi, 142, sì. Ma quello però è il peccato originale di tutto. Sì, giorno in cui Donnarumma, lo diciamo per chi non lo sapesse, ma chi non lo sa è perché non ci segue, il giorno in cui Donnarumma sarà libero di firmare gratis. La mia teoria è del fatto che è chiaro che tra 42 giorni Donnarumma è libero e potrebbe anche decidere un po' cinicamente di andarsene a parametro, però penso anche che il Milan stia facendo una strategia, direi quasi di moral suasion, cioè gli sta costruendo una squadra importante attorno, te ne vai tu adesso, dopo che abbiamo investito su di te, dopo che comunque la tua fede o comunque imprinting rossonero non è in discussione, con una squadra che finalmente è in grado di vincere o comunque di potersi avvicinare. Stefano Colantuono, ciao Stefano. Ciao, buonasera a voi. Ti piacerebbe allenarlo il Milan con Tonali, magari Bakayoko, sicuramente un altro centrale, se poi ti portano Federico Chiesa, io non dico che hai in testa che il terzo o quarto posto lo puoi prendere, però magari il dubbio ti viene. Beh, stanno sicuramente lavorando molto bene, si stanno riavvicinando alle posizioni, diciamo, nobili della classifica, quelle più importanti, per cui credo che il lavoro, sentivo i commenti di precedenti e sono giusti, di Pierluigi sono giusti, è la verità, si sta reinserendo con grande interesse alle zone importanti della classifica. Credo che aver riconfermato Ibrahimovic per me è stata la cosa fondamentale, perché è vero che poi i nomi che si leggono, Chiesa, Tonali, sono giocatori di grandissimo futuro, però hanno vicino, hanno bisogno poi vicino di un giocatore che si prenda un po' di responsabilità. E questo credo che meglio di Baremo ce lo sappia fare nessuno. Sì, ma anche la conferma di Pioli. Allora, le amichevoli non valgono nulla in assoluto, quelle estive, a maggior ragione quando le giochi a settembre con una settimana di preparazione. Però ho dato un'occhiata e noto che contro squadre di Serie B, comunque, quindi diciamo squadre di dilettanti, e soprattutto conferma esattamente quello che ha fatto vedere dopo il lockdown, cioè segna con grande facilità, segna con tanti giocatori, segna Castileco, segna Chessy, segna ha quella stessa fisionomia lì che ha consentito dopo la ripresa di essere una squadra la migliore, insomma, a livello numerico. È un'onda lunga che continua. Che è cominciata dopo il lockdown, che ha portato alla conferma di Pioli, che ha innestato un meccanismo di positività di questi tempi, è una brutta parola, ma di positività in termini positivi, appunto, degli umori, dell'ambiente, che sappiamo sono importanti, perché l'abbiamo detto tante volte, va bene, il pubblico cambia tutto, ma lo sappiamo benissimo che San Siro e comunque il bacino d'utenza del Milan è un valore aggiunto enorme del Milan, così come delle grandi squadre. È molto allenante, è molto stimolante, salvo poi diventare nei momenti di difficoltà qualcosa che può diventare addirittura un fardello. Ecco, il Milan si è proprio rimesso in piedi e devo dire, sono d'accordo con te, cioè queste amichevoli estive vanno nella direzione giusta per quel poco che contano, confermano quello che si è visto nel post lockdown e dal punto di vista dirigenziale per me la scansione delle operazioni è stata perfetta, cioè si è partiti da Pioli, poi si è andati su Ibra, con la conferma di Ibra che sappiamo che cosa significhi, poi si sta facendo un mercato di rafforzamento e poi l'ultimo passaggio sarà Donnarumma. Poi non è che io non mi aspetti una trattativa facile, fuochi d'artificio. Insomma, è bravo a fare gli interessi sporchi dei suoi assistiti, però ripeto, penso che verrà messo nelle condizioni Donnarumma di poter continuare, di avere voglia di continuare. E si farà l'offerta che non si può rifiutare. Allora, chiedo a Stefano Colantuono un minuto di pazienza. Detto che oggi è sbarcato Muriqi, nuovo acquisto della Lazio, arriva dalla Turchia, ha pagato una ventina di milioni di euro, sarà la spalla di Immobile, almeno da quello che ha capito lui, che ha riportato ai media del suo paese. Saranno contenti quelli che facevano la spalla di Immobile alla Lazio fino a questa mattina. Voglio parlare un pochino con Stefano Colantuono dell'Atalanta e della Roma, però prima abbiamo un minuto di traffico, torniamo subito. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Siamo con Stefano Colantuono, siamo nell'intervallo a Londra di Tottenham Everton che sono andate a riposo sullo 0-0. Stefano Colantuono, oggi Zaniolo è stato operato in Austria, ha detto tutto bene, inizia il mio countdown che dovrebbe portare a metà marzo per il ritorno in campo, poi si vedrà, anche se immagino servirà insomma al massimo della prudenza. C'è l'effetto Friedkin, importante, però la Roma, devo dire la verità, mi sembra indietro. Beh, lo dico anch'io, anzi secondo me. Probabilmente devono dare, poi dipende sempre da quello che vogliono fare, ma credo che se Friedkin è arrivato vuole anche lui insomma confrontarsi con l'altra classifica, almeno spero, e si devono dare una mossa, però si devono svegliare, perché a mio avviso stanno un po' leggermente in ritardo forse rispetto agli altri. Ora sembra che per la difesa si stia cercando di far arrivare Isso, che è un buon innesto, ci mancherebbe, però insomma a mio avviso manca ancora qualcosa, quantomeno per avvicinarsi in maniera sensibile alle altre, Anche alla Lazio, perché in questo momento i rapporti di forza, diciamo, tradizionali sono ribaltati. Sì, sono lentamente ribaltati, per cui per avvicinarsi alla Lazio bisogna fare qualcosa di più. È chiaro che essendoci una proprietà nuova ancora si deve inseriare con continuità, poi sembra che la persona più presente sarà il figlio, insomma c'è da capire un po' di cosettine, però credo che la presenza in loco della proprietà sia determinante, perché la Roma non deve fare l'errore che ha commesso nella gestione precedente con una proprietà molto lontana, e per gestire una società come Roma è difficile, ci vuole la presenza sul posto, ci sono tante dinamiche da sistemare, bisogna fare la squadra, per cui devono lavorare sodo secondo me. Sì, c'è molto da fare. Altro tema, l'Atalanta, che come tutte le estati, anche se adesso è praticamente autunno, ci stiamo bellamente dimenticando, no? Per carità, abbiamo ancora negli occhi il straordinario finale di stagione, abbiamo negli occhi quella partita valorosa, sfortunata, anche se poi alla fine persa nella logica contro il Paris Saint-Germain, però poi parliamo di Juventus, di Inter, di Lazio, di Milan, di Roma, il Napoli e l'Atalanta dove la metti? Sempre là tra le prime, chiaramente, poi sarà lei fare qualcosa in più. È importante che Gomez non sia partito, è stato fondamentale questo, che lui sia rimasto, perché è il giocatore simbolo di questa squadra. Il mercato, neanche lo commento, perché il mercato dell'Atalanta è sempre pieno di sorprese, ma soprattutto di giocatori che poi sembra che stanno lì da una vita. Arriva un giocatore appena arrivato, magari a volte neanche lo si conosce in toto, però poi dimostra di fare cose grandissime, come se stesse all'Atalanta da tantissimi anni. Quindi sicuramente la ritroveremo lì tra le protagoniste del campionato senza nessun tipo di problema. Pier, un mesetto e mezzo fa parlavamo di Atalanta, l'anno prossimo corre per lo scudetto. Ti senti di ripeterlo o è passato in prescrizione? No, non è passato in prescrizione, non è la favorita, ma è una delle outsider. Insomma, l'Atalanta viaggia su dei ritmi, se togliamo l'inizio della stagione scorsa e qualche passaggio a vuoto che c'è stato, che secondo me l'anno scorso è stato anche in occasione delle grandi imprese di Champions. Penso alla sconfitta di Bologna che è arrivata dopo l'impresa in Ucraina, è il primo esempio che mi viene in mente. Qualche passaggio a vuoto, secondo me, proprio di crisi di crescita, la sconfitta in casa contro la Spal a gennaio, fine gennaio, inizio febbraio, adesso non ricordo. Insomma, un po' di punti, poi Gasperini si è lamentato degli scontri diretti e avrà ovviamente le sue ragioni, però dico in assoluto anche qualche passaggio a vuoto è secondo me dovuto al fatto che era il primo anno con una squadra che doveva gestire la Champions League, che oltretutto è iniziata malissimo. Quindi io penso che no, l'Atalanta sia in condizione e credo che debba avere l'ambizione di provarci, sì, di provare a fare salti di qualità, però non è impossibile, ecco, tanto per essere chiari, noi citiamo sempre il Leicester come la cosa più difesa più incredibile della storia del calcio, e lo è secondo me. È molto più probabile che l'Atalanta o la Lazio, per fare il discorso di prima, possano vincere il prossimo campionato rispetto alle possibilità che aveva il Leicester prima di quella meravigliosa stagione. Quindi si deve credere, bisogna vedere come gestirà i vari appuntamenti, perché no? Sui nuovi sono d'accordissimo, sì, con l'attuale, nel senso che li giudichiamo dopo tre mesi di cura, ecco. Gasperini, esatto, no, e poi comunque loro quando vendono già sanno che cosa andare a prendere. E sul Papu azzarderei un paragone quasi con Ibra in termini tecnici, ma direi anche in termini proprio di simbolici, cioè, così come Ibra è fondamentale per i giocatori del Milan, è un collante, è quello che improvvisamente fa rispettare la disciplina ancora di più degli altri, insomma porta tutta l'asticella di tutti verso l'alto. Io penso che il Papu, anche quando magari non segna come è successo nel giro di ritorno di quest'anno, che ha segnato poco, però è un giocatore che guida verso la virtù i comportamenti. È quasi un delitto, Pier, di lesa maestà che qualcuno abbia pensato di poterlo portare via da Bergamo. Stefano Colantuono, ciao, grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Alla prossima. Ciao, Stefano, ciao. Allora parliamo di Premier League. Attenzione al pericolo numero 1, maglia numero 4, Virgil van Dijk. Robertson cerca il secondo palo e arriva proprio Van Dijk a spingerla dentro, tutti fermi nella difesa di Bielsa. Stacco imperioso di Van Dijk e nuovo vantaggio per la squadra campione d'Inghilterra in carica. Giovanni Armanini, One Up Football, ciao. One Football, ciao, up. Ciao ragazzi. Chiedo scusa, ho invertito l'ordine delle parole. Allora, parliamo un po' di Premier League. Abbiamo visto ieri un meraviglioso Liverpool-Leeds 4-3 che ci ha riappacificato col calcio, no? Con la bellezza di uno sport che anche senza pubblico è in grado di regalare delle partite di un'intensità unica. Assolutamente sì, una bellissima partita, un esordio tutto sommato da loco per il Bielsa in Premier League. Peccato non abbia fatto il risultato, però insomma ha presentato il biglietto da visita di una squadra che comunque da neopromossa mette in difficoltà fino a tre minuti dalla fine i campioni in carica. sarà una Premier League secondo me molto diversa dalle ultime tre a cui abbiamo assistito in questi anni, perché sono state tre Premier League dove di fatto si è vinto molto vicini ai 100 punti, e credo che quest'anno invece ci sarà un livellamento più verso i 90 in cui si potrà inserire il Chelsea e in cui sicuramente le duellanti saranno ancora il Manchester City e il Liverpool. Bisognerà capire quanto il Liverpool riuscirà a performare esattamente come l'anno scorso, perché questo Liverpool l'anno scorso ha fatto delle cose straordinarie, e se andiamo a vedere i dati, le statistiche, gli indici prestazionali, in particolare quelli sui punti attesi, il Liverpool lo scorso anno ha fatto veramente qualcosa di straordinario rispetto al gioco, anche gioco offensivo, questo intendo espresso. E quindi andiamo a vedere, con questo Chelsea che ha fatto un grande mercato, si può tornare a vedere forse anche una corsa a tre. Sì, ha riaperto il borsellino Abramovic. Pier, con tutto il rispetto per i nostri, io devo dire, quando leggo l'elenco degli allenatori della Premier di questa stagione, un po' di invidia la provo. Abbiamo visto ieri Klopp contro Bielsa, stiamo vedendo adesso, siamo nell'intervallo, Mourinho contro Ancelotti, poi c'è Guardiola. È il posto dove ci sono i soldi, è il posto dove c'è anche l'equilibrio. Vedi, tante volte facciamo ragionamento sull'equilibrio, sulla differenza per esempio tra gli sport americani, che hanno dei meccanismi di riequilibrio, e gli sport europei, dove invece le distanze crescono di stagione in stagione. L'Inghilterra è stata storicamente in questi ultimi anni il campionato più equilibrato, quello con più realtà vincenti, salvo poi l'anno scorso smentirci con una stagione assolutamente dominata al Liverpool. Sono d'accordo sul fatto che vedremo un campionato, me lo auguro, ma penso anche che andrà così, più equilibrato, con il Chelsea che può avere un suo ruolo sicuramente, anche perché ha fatto un grande mercato, con l'Arsenal che è partito bene e secondo me qualcosa può dire anche se non vincere il campionato, con il City e il Liverpool ovviamente grandi favorite. Ieri è stata una partita bellissima che ho visto sull'iPad, passando dalla spiaggia fino alla camera d'albergo, fino alla doccia, rigore 4-3, è una follia assoluta che ha macchiato una partita di enorme personalità. Cioè, la mano di Bielsa si vede ed è in questa capacità di giocare palla a terra, insomma, di questi giocatori magari anche un po' sconosciuti. Io gioco la PlayStation l'anno scorso con il United, quindi mi fa un certo effetto vedere Ayling, vedere Bamford, vedere insomma tutti quelli che erano l'anno scorso nella serie B inglese, che sono tornati. Ma la realtà adesso, PlayStation è che è una buona squadra che Bielsa ha migliorato soprattutto in termini proprio di mentalità e di identità di gioco. Ieri Liverpool non ha giocato bene, poi è chiaro che ha dei colpi. Sì, sono anche le partite di inizio stagione enormi, sì, poi esatto, davanti ne ha uno bravino, un certo Salah. Davanti ne ha uno bravino, al punto che anche in una giornata in cui gli altri due sono così un po' sbiaditi, poi quello lì risolve i problemi. Però insomma è stata una follia il rigore del 4-3. Piace un po' per il Leeds, tra l'altro il Leeds è una proprietà italiana, quindi sì. Ma magari nei prossimi giorni due chiacchiere le facciamo con Randrizzani, perché comunque insomma è una storia bella. Poi il Leeds è una realtà clamorosa del calcio inglese, la squadra che arriva in finale di Champions League ormai 20 anni fa. È una storia molto molto molto particolare. Come racconta spesso il calcio inglese. Ieri vedevo, Giovanni, anche quelle meravigliose immagini allo stadio del Fulham a fianco al Tamigi. Volevo chiedere a Giovanni Armanini invece quanto ha ancora da spendere Abramovic, visto che il mercato chiude a inizio ottobre. Bella domanda. Ma credo che lui sia arrivato adesso con le scelte che ha fatto. Probabilmente andrà a cambiare qualcosina sui portieri, vedremo quali saranno le scelte finali, definitive. Però no, alla fine io all'inizio ero un pochino perplesso su tutti questi acquisti, però se vai a fare i conti sai meglio di me che gli acquisti poi vengono contabilizzati in più anni. Credo che Abramovic abbia fatto un calcolo molto semplice, che è quello che tutti sappiamo del fair play finanziario in due anni. Ha capito che al contrario degli altri, che stanno facendo in un certo senso i conti con quelli che sono stati i tre mesi passati, lui ha deciso di fare all-in adesso, perché sa che con la squadra perché partiva innanzitutto da più 100, cioè quello che ha preso e non ha potuto spendere per il blocco di mercato da Hazard l'anno scorso, e successivamente ha avuto questo bonus dalla UEFA che praticamente non conterà questo anno, perché il prossimo conteggio fair play finanziario sarà quadriennale, e credo che abbia voluto fare allora l'all-in adesso. Quindi immagino che ci sia una concentrazione. Ecco, c'è questo secondo me da imparare tanto dai club inglesi. Loro fanno dei mercati molto concentrati, il Chelsea fa ora, poi ma il Manchester City lo fece 2 anni fa con tutti i terzini, il Liverpool lo fece spendendo 150 milioni per un portiere e un difensore che hanno cambiato la storia del Liverpool, poi però investendo comunque poi danno continuità. E poi loro e poi loro però danno continuità, non gioca per loro, le plusvalenze sono delle cose straordinarie che quasi non considerano, cioè, voglio dire, vanno a cena, fanno festa con le plusvalenze, ma non lo considerano come succede da noi, una cosa che poi di anno in anno deve ritornare, e questo secondo me oggi è quello che fa la differenza tra il loro modo di intendere l'azienda società di calcio e il nostro. Grazie Giovanni. Hanno una forza economica, una forza economica strutturale che noi non abbiamo, hanno un modello di business un po' più sano, perché i diritti televisivi sappiamo pesano tantissimo, sono molto più alti dei nostri, ma ci sono poi tutto il resto delle entrate con gli stadi di proprietà, con il merchandising, con tutta una serie di, quindi fanno impresa meglio di noi, ecco. Sì, in questo momento certamente. E ultimo accento che faccio sul discorso del Chelsea, c'è anche un elemento anagrafico di cui abbiamo parlato spesso in questi giorni. Non è soltanto un mercato virtuoso, non è soltanto un mercato, diciamo, spumeggiante, ma anche un mercato con dei giovani di talento, quindi c'è da questo punto di vista un'ulteriore sottolineatura che va fatta. Sì, non costruiscono l'instant team. Grazie Piera, a domani. Ciao, grazie per Luigi Pardo, che troviamo domani dopo il GR delle 14. Adesso ci fermiamo, un minuto di pausa, poi abbiamo VAR Anatomy, Tour de France, US Open e seguiamo il secondo tempo di Tottenham Everton. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. VAR Anatomy. Con Luca Marelli. Eccoci nel tradizionale appuntamento con Luca Marelli. Ciao Luca. Ciao, buonasera a tutti. Allora Luca, siamo a 7 giorni dall'inizio della stagione, diciamo ufficialmente il campionato di Serie A, poi in realtà in mezzo ci sarà già da giovedì con Shamrock Rovers Milan la corsa verso l'Europa, quindi il primo preliminare di Europa League. Ci siamo lasciati settimana scorsa promettendoci che avremmo fatto un approfondimento su che tipo di arbitraggio vedremo in questa stagione, soprattutto su quelli che sono poi i temi centrali che fanno discutere, i falli di mano, i calci di rigore. Allora, che cosa dobbiamo aspettarci? Ma guarda, il raduno è cominciato ieri per gli abiti della CAN. Naturalmente è un raduno tutto sui generis, sia per le condizioni sanitarie sia per il fatto che si tratta del primo raduno CAN, delle CAN riunificate dopo 10 anni. Nicky fortunatamente è tornato sulla sua decisione e siamo tornati al 2010, anno in cui vennero divise CAN A e CAN B. Ovviamente non abbiamo ancora delle linee precise, perché chiaramente Rizzoli parlerà alla fine del raduno con la consueta conferenza stampa. Sicuramente possiamo aspettarci 2 elementi in particolare. Sui falli di mano, stocchi di mano, non credo che ci saranno grandi novità, perché l'interpretazione è la stessa da anni, e perciò tutto sommato non credo che ci saranno grosse novità, e credo che le polemiche si sprecheranno anche quest'anno in merito. Mentre invece credo che ci sarà una stretta e anche abbastanza vistosa sui calci di rigore per contatti tra i giocatori, perché l'anno scorso il numero di 186 calci rigori, di cui 134 per falli, per contatti tra giocatori, sono decisamente eccessivi. Quindi dovremmo vedere meno calci di rigore. Sì, io credo che consiglio non richiesto per Rizzoli, credo che sarebbe il caso che nelle prime 2 giornate venissero designati in Serie A arbitri che hanno tendenza a fischiare pochi calci di rigore, per dare una linea, perché altrimenti, se cominciamo come l'anno scorso con quel, ricorderete, Cagliari Brescia, con quel rigore che creò una enorme confusione, rischiamo veramente di trovarci davanti a un'altra stagione che sarà connotata da grandi polemiche. Le polemiche ci saranno ugualmente, però bisogna dare una linea più europea al nostro tipo di arbitraggio. L'abbiamo visto nella finale di Champions con i famosi contatti su Coman e su Mbappé, che non sono stati neanche presi in considerazione. Dovremo arrivare a quel livello di, nel senso che un calcio di rigore dovrà essere assegnato per una infrazione, non per una mezza infrazione. Con l'importanza che poi ci sia uniformità, altrimenti chiaramente ci saranno altre polemiche. A livello di VAR, esatto, invece, che tipo di VAR vedremo? Ma guarda, io credo che per quanto riguarda il VAR saremo più o meno allo stesso livello, non è cambiato assolutamente nulla. Abbiamo visto una grande novità già nella prima giornata della Premier League, perché abbiamo visto che gli arbitri inglesi, dopo aver fatto quello che volevano per un anno, adesso sono costretti, sono tenuti a rivedere gli episodi al monitor, a eseguire un field review. Per quanto riguarda l'Italia non credo che ci sarà una grande differenza, più o meno gli interventi VAR saranno gli stessi, forse vedremo una leggera riduzione. Però chiaramente fino al momento in cui il protocollo rimarrà questa, non possiamo aspettarci grandissime novità. E alle viste un cambio di protocollo, un ulteriore approfondimento non c'è. Non credo proprio. Non credo neanche nella prossima primavera. Ricordiamo, ma chi ci segue lo sa, insomma, che se ne parla una volta all'anno intorno a fine febbraio, ed è ovviamente la sintesi di un lavoro molto più lungo. Parliamo di lavoro di mesi, di commissioni che studiano prima di portare eventualmente all'IFAB, no, Luca, una proposta di revisione. Però si è molto discusso ad esempio del futuro del fuorigioco, ma in questo momento, anche complice tutta la situazione che c'è intorno, è chiaro che ci sarà probabilmente la scelta di una certa continuità. Che cosa succede invece a proposito di VAR e Serie B e di VAR e VAR Rubber di Coverciano, che era una delle grandi novità che avrebbe dovuto caratterizzare questa stagione, rimasta travolta credo dal Covid? Sì, esatto, i lavori, essendo lavori materiali sulla sede della VAR Room a Coverciano, sono stati interrotti per circa 6 mesi e perciò abbiamo un problema di linea con Luca Marelli. Vediamo, scusatemi, se riusciamo a ritrovarlo. Vai. Io mi auguro. Mi sentite? Sì, vai. Mi auguro che si arrivi a gennaio ad avere la VAR Room pronta. Per quanto riguarda la Serie B, invece, credo che la sperimentazione andrà avanti per tutta la stagione, e di VAR si parlerà dalla stagione 21-22. Non credo che sarebbe il caso di introdurre il VAR a metà stagione. Perché in un certo senso verrebbe un pochino falsata la stagione stessa. Grazie Luca. Grazie a voi, buon lavoro. Appuntamento con VAR Anatomy domenica prossima, e entriamo nel vivo, perché con domenica prossima riparte anche il campionato, e quindi piano piano vi potremo raccontare anche attraverso gli episodi, cercheremo di spiegarvi esattamente il senso di alcune decisioni e anche di alcuni errori, la genesi di alcuni errori degli arbitri italiani. Adesso, mentre Tottenham ed Everton sono tornati in campo, ottavo minuto del secondo tempo, parziale ancora 0-0 a Londra, noi ci trasferiamo agli US Open. E sbaglia il rovescio Lazarenka, finisce qui. Vince per la seconda volta a New York Naomi Osaka, batte in rimonta Lazarenka 1-6, 6-3, 6-3, terzo slam per la giapponese. Brava, bravissima Naomi Osaka. Federico Ferrero, una delle voci di Eurosport, ciao Federico. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Allora, abbiamo raccontato ieri sera tardi la vittoria di Naomi Osaka sulla Azarenka, 1-6, 6-3, 6-3, terzo slam per lei, che è una delle tenniste, ho scoperto, più ricche del mondo. Sì, beh, certo, ma sai, il Giappone è un mercato molto particolare, per cui se tu sei famoso in Giappone, diciamo che ti hai sistemato te stesso e i parenti fino alla sesta generazione. Anche in campo maschile, per esempio, Kei Nishikori, che per carità è un campione, tra l'altro è stato finalista agli US Open 6 anni fa, ma non è né Federer né Nadal, Nishikori non può uscire di casa in Giappone, addirittura aveva soldato un attore che gli faceva da sosia e che girava per strada al posto suo, prendeva gli aerei al posto suo perché non poteva più vivere. Quindi questo per farti capire cosa significa essere una superstar in Giappone. Il livello di pressione, tra l'altro la Osaka... insomma, ha anche una famiglia particolare, ha un nonno che è uno dei candidati alla successione del primo ministro giapponese Abe. Sì, ma ha una storia molto particolare, ed è una ragazza infatti che secondo me, a differenza di tanti sportivi, anche tanti tennisti, ha una sua complessità notevole, perché magari a prima vista potrebbe sembrare che anche questa sua battaglia per il Black Lives Matter sia un po' di facciata o, come dire, una cosa superficiale. Lei invece crede veramente tanto e si sta spendendo tanto in questi mesi, quando potrebbe in realtà occuparsi semplicemente degli affari suoi, che insomma ne avrebbe già sufficiente. Invece secondo me è cresciuta bene, come dicono così, ed è una insomma è anche un melting pot di etnie, di culture, e il fatto che vinca, che ha detto questa visibilità, è un bel messaggio per il tennis, perché io la percepisco come genuina, cioè veramente interessata ad altre cose che non siano necessariamente soltanto una pallina e una racchetta. Quindi sì, ragazza piena di contenuti, poi ieri l'abbiamo vista anche con sulla maglia di Kobe Bryant, per carità, sì. Può anche essere un po' un concedere alla platea americana, per quanto ieri chiaramente non ci fosse nessuno ad assistere al suo successo, almeno nessuno di presenza. Dal punto di vista tennistico, che tipo di presente e di futuro può avere in un momento di grande passaggio? Perché poi noi ad esempio continuiamo a raccontare la rincorsa, l'ossessione di Serena Williams per questo 24esimo slam che continua a scappare. Ma guarda, basterebbe considerare il fatto che Osaka ha vinto 6 tornei finora, che non sono tanti, ma 3 sono slam, quindi come dire, sa scegliersi gli appuntamenti. Secondo me, visto proprio come dicevi tu il fatto che siamo in un periodo in cui manca la regina, ma mancano anche le principesse, il tennis femminile è apertissimo, ha tantissime soluzioni. Lei è veramente una di quelle che di qui in avanti può dominare, perché ha pochi punti deboli, fisicamente fortissima, ha un ritmo nello scambio che è insostenibile per quasi tutte. E hai citato Serena, ecco, se c'è una che può tenere le testa è Serena, ma insomma l'orologio ticchetta anche per lei, ed effettivamente hai detto ossessione, probabilmente è così. Vorrei dire una cosa che spesso secondo me viene sottovalutata: è giusto dare numeri, misurare le prestazioni, è umano e nello sport lo si fa, lo sappiamo benissimo, però Serena, che ha vinto 23 slam, non è inferiore a Margaret Court, che ne ha vinti 24 o 45 anni fa, anzi probabilmente è superiore, esatto. Certamente, indubbiamente, perché si è misurata con un tennis diverso, con meno concorrenza, per profondità, esatto, sì, per esempio gli Open d'Australia, che non era neanche Open perché non c'era ancora il tennis Open, era sostanzialmente un campionato nazionale australiano, quindi oggi invece ci sono i migliori di sempre, per cui è tutto un altro tipo di concorrenza e di contesto. Invece questa sera la finale maschile è ore 22 italiane, Team contro Zverev, un 93 contro un 97, è il momento finalmente del cambio generazionale, anche se poi torneranno quegli altri, magari andranno avanti ancora per un po' a dominare. Di sicuro questa sera uscirà il primo vincitore di un grande slam, di un torneo slam nato negli anni 90. Sì, ma hai detto bene, uscirà perché gli altri si sono autoeliminati, perché altrimenti staremo raccontando probabilmente ancora un'altra storia. Secondo me Team è favorito, lo è nettamente. Zverev è un pochino un punto interrogativo, no? Perché è un giocatore giovane con tante armi a disposizione, un servizio devastante, ma esistono due Zverev praticamente: quello che vince i tornei del circuito, compresi Master 1000, ha vinto il Master a Londra, e quello che invece negli slam insomma si fa abitare da tutti i suoi fantasmi, perché è un tennis diverso quello nei tornei dello slam. 3 su 5 ovviamente, si gioca un giorno sì un giorno no, devi vincere 7 partite, è un altro passo. Lui questo passo evidentemente non ce l'ha ancora, ed è una specie di miracolato, perché in semifinale contro Carreño Busta per i primi 2 set si è battuto da solo. Mi è piaciuto il fatto che si sia dato una possibilità, mentre in una partita del circuito avrebbe perso 6-3, 6-2, negli slam ci sono ancora terzo, quarto e eventualmente quinto set. Lui si è dato questa possibilità, ha smesso di commettere doppi falli, perché c'è un ragazzo che passa da tirare prima e seconda 230 all'ora a sbagliare anche servendo da sotto 10 minuti dopo per la paura, quindi veramente ha dei cali emotivi che sono paurosi. Ce l'avrebbe le armi secondo me per lottare quasi alla pari con Team, come è successo per esempio in Australia in semifinale, però secondo me Team nella semifinale con Medvedev ha fatto vedere veramente di aver preso un altro passo, di essere molto più consapevole, ha già giocato 3 finali dello slam, questa è la quarta, e non ha Federer, Nadal, Djokovic di là, ma Zverev, quindi secondo me vincerà lui. Sì, chissà che il tennis non ci racconti questa notte una storia diversa. Il paradosso è che forse dei due, quello considerato il predestinato, era Zverev, che poi per le ragioni che stai raccontando tu invece fin qui non è riuscito a spiccare il balzo. No, si è un pochino incartato e un po' è stata veramente l'aspettativa nei suoi confronti. Anche la Germania adesso sono tutti lì che fremono, perché l'ultimo giocatore tedesco a vincere due sopra è stato Boris Becker nel 1989, quindi parliamo di 31 anni fa, l'anno in cui è nata la Zarenka, per dire. E tra l'altro quella fu un'edizione folle del US Open, perché Becker al secondo turno affrontò un italo-americano, Derek Rostagno, che faceva serve and volley, era un giocatore molto particolare, e gli cancellò due match point, di cui uno che è rimasto nella storia del tennis, con un nastro che diventò un pallone esistente. La partita era persa. Questo per dire il tennis che cosa può far raccontare. Dopo 31 anni noi conosciamo le pressioni cui sono sottoposti gli atleti italiani, no? Quando manca successo da tanto tempo, anche nel tennis, vuol dire, non aspettiamo uno slam dai tempi cui sono nato io. In Germania comunque non cambia molto, e quindi lui questo peso sulle spalle finora l'ha sopportato abbastanza a fatica. Grazie Federico. Grazie a te, è stato un piacere. Ciao, grazie a Federico Ferrero. Ricordiamo Team Zverev, finale degli US Open, finale maschile questa sera alle 22 su Eurosport. Intanto l'Everton si è portato in vantaggio a Londra contro il Tottenham al decimo minuto del secondo tempo, colpo di testa di Calvert-Lewin, e dunque la formazione di Ancelotti conduce 1-0 quando siamo a mezz'ora dalla fine. Abbiamo l'ultimo traffico e poi andiamo sulle strade del Tour de France. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Tour de France che arriva nella sua settimana decisiva, in realtà è iniziato oggi, poi domani ci sarà il secondo giorno di riposo, quindi le sei tappe decisive, 5 più la passerella di Parigi. Oggi però si è arrivati sulla Gran Colombière al termine di una tappa da 174 km, arrivo hors catégorie dopo altre due salite, una tappa che in un certo senso ha confermato le indicazioni viste nelle prime due settimane e ha espresso un verdetto, perché è saltato completamente il colombiano Bernal, che si trovava in corsa per il podio e che è arrivato a 7 minuti. Pier Augusto Stagi, ciao. Buonasera, ciao Giovanni. Allora, tra le conferme c'è che più che Tour de France è un Tour di Slovenia. Eh sì, questa piccola Slovenia da 2.800.000 abitanti in realtà sta sfornando da qualche anno diversi ciclisti, però in questo momento ha due eccellenze che il mondo intero invidia. Noi italiani non ne parliamo neanche, perché noi siamo ai minimi storici, siamo tornati sostanzialmente agli anni 80, quando andavamo a correre il tour per onor di firma e arrivavamo 14esimi. E guarda caso c'è Damiano Caruso, che è il migliore italiano, 14esimo a 9 minuti e 02, ed è sostanzialmente la spalla di Mikel Landa, capitano del Bahrain, che è settimo in classifica generale, e noi ci dobbiamo accontentare di questo piazzamento. Per il resto noi dobbiamo applaudire questi due ragazzi, Primoz Roglic, che ha vinto la Vuelta, è stato lì lì per vincere l'anno scorso, vi ricordate, il Giro d'Italia con Nibali, e sostanzialmente sono andati, hanno fatto il gioco di Carapaz, che in questo Tour tra l'altro sta facendo una figura molto non buona, non è neanche una spalla ideale di Bernal, perché oggi Bernal è stato scortato in un momento difficile da Kwiatkowski e Carapaz, vincitore di un Giro d'Italia, faceva fatica a tenere le ruote anche del colombiano, quindi una Ineos ex Sky assolutamente alla deriva. È anche la fine di un'era, oggi abbiamo visto comunque diciamo plasticamente, no? Un cambio di periodo. Eh sì, perché guarda, la Jumbo Visma, questa formazione olandese, ha veramente copiato in tutto e per tutto la metrica e lo spartito della Sky. Ha preso i corridori più forti che c'erano in circolazione. In questi due anni gli mancava appunto Tom Dumoulin, l'ha preso, e pensate, Dumoulin si è messo a tirare come un ossesso nella fase finale ed è arrivato, tra le altre cose, decimo, è riuscito ad arrivare decimo, così come un altro ragazzo estremamente forte come Sepp Kuss, che è arrivato sesto. Quindi hanno fatto secondo, sesto e decimo, tre corridori della stessa squadra, confermando un predominio quasi disarmante, perché questi ragazzi ma non scattano. Ho provato Adam Yates a scattare nel finale, ma andare a 25 all'ora, a 15 all'ora, in pendenze piuttosto evidenti al 17-18%, comunque una media al 14%, credetemi, è quasi impossibile. Loro hanno preso il meglio, corridori che potrebbero lottare per il podio di tutti e tre i grandi giri, ecco, li hanno condensati nella loro squadra e hanno proprio un dream team a tutti gli effetti, il meglio del ciclismo mondiale in questo momento concentrato in questa squadra olandese che si chiama Jumbo Visma. C'è solo un ragazzo che non hanno preso e spero che non lo prendano, e soprattutto mi auguro e auspico per noi appassionati che ci provi ancora, che questo Tadej Pogačar, 21 anni, che è un talento assoluto, ha vinto una tappa sui Pirenei e oggi ha vinto, ed è la seconda, è al suo primo Tour de France, quindi un esordiente alla maglia bianca di miglior giovane, ed è la seconda vittoria di tappa che fa in questo Tour, quindi il suo Tour non è vinto ma è stravinto comunque vada. Mi auguro solo che non si accontenti del secondo posto e quindi non rimanga lì a ruota di Roglic, che sostanzialmente lo porterà sul podio di Parigi. Allora la classifica, sì, ci aspettiamo qualcosa di meglio. Classifica che dice Roglic maglia gialla, Pogačar a 40 secondi, Rigoberto Urán che è risalito in zona podio 1.34, poi Lopez 1.45, Adam Yates 2.03, sono tutti molto vicini. Il problema non è tanto nei distacchi che diciamo lasciano aperta la questione maglia gialla a ben più di due ciclisti. Il problema è che quello che abbiamo visto oggi per decine di chilometri, quindi quel treno tutto giallo davanti a scortare la maglia gialla a ritmi che sono quelli che hai evocato te, dà l'idea di un dominio della gara che nelle ultime sei tappe, 5 più Parigi, io non so se riuscirà ad esprimere qualcosa a livello di agonismo. Guarda, il terreno c'è, perché l'ultima settimana è molto molto dura, già da martedì si torna a salire, c'è un arrivo comunque in salita, mercoledì c'è il tappone con la Souvenir Henri de Grange a 2304 metri, che è sostanzialmente la nostra cima Coppi, cioè la vetta più alta del Tour, che è l'unica che sostanzialmente va sui 2000 metri, 2304, e c'è anche da affrontare un'altra salita estremamente difficile come il Col de la Madeleine, che è un'altra vetta 2000. Lì ad esempio era una vetta adattissima ai colombiani, a un corridore come Egan Bernal, ma è andato assolutamente fuori classifica. Però Rigoberto Urán, corridore esperto, Adam Yates, lo stesso Tadej Pogačar hanno il terreno per provare a fare qualcosa. Martedì, mercoledì e giovedì, e poi sabato, penultimo giorno prima della passerella ai Campi Elisi a Parigi, c'è la cronoscalata alla Plan des Befille. Lì sarà divertente vedere due corridori come Tadej Pogačar e Primoz Roglic, due ottimi cronomen, lottare sul filo dei secondi, perché se restano lì a 40 secondi come adesso, il Tour si può decidere veramente, si può decidere alla Place de Belfi. Finalmente senza trenini e super squadre. Grazie Pier. Grazie a voi. Ciao, grazie Pier Augusto Staggi. Abbiamo dunque fatto il punto sul Tour de France. Ricordo, domani, seconda e ultima giornata di riposo, ci sono anche i tamponi, con tutto quello che significa in questo particolare 2020. Poi le ultime sei tappe, 5 più la passerella di Parigi, così delineate come ha fatto per noi Pier Augusto Staggi. Siamo negli ultimi 20 minuti, Tottenham 0 Everton 1, poi in serata vedremo anche il secondo Paris Saint-Germain di stagione in casa contro il Marsiglia, grande partita, il Monaco oggi ha battuto 2-1 il Nantes, stiamo parlando di Ligue 1 francese, vedremo anche il Valencia che debutterà in Liga dove non giocano le grandi perché sono andate avanti in Europa e dunque si sono fermate. Io mi fermo qui, ringrazio Edoardo Lavezzari in redazione, Roberta Frisani e Pietro Lacorte in regia. L'appuntamento è domani dopo il GR delle 14. Ciao! Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ciao, Radio 24. Saluti! The